Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci alle 8:19 minuti, Oscar. In questo lunedì 27 febbraio, già ho visto che come alza siete scambiate qualche cannonata post giornata di campionato. Questo lo capisco, non c'è nessun problema. Però ho visto che non hai commentato quella che secondo me è una delle notizie fondamentali. No, non sto parlando della notte degli Oscar col metodo Emiliano. Hai visto? Hanno seguito il metodo Emiliano. Ah sì? E sì, perché il fatto della busta sbalda, ha vinto questo, ha vinto quello, me ne vado, resto. È fantastico. Come vedi, le vicende del PD rimbalzano subito sulla notte degli Oscar. No, tutti lo sanno, immagino, ma comunque ricordiamo la vicenda di questa notte, l'annuncio clamoroso che aveva vinto come miglior film La Land e invece no, aveva vinto Moonlight, e quindi tutto sbagliato. Ma come hanno fatto a fare una cosa del genere? Come vedi, nessuno è perfetto davvero, però è veramente del clamoroso. Però a me è subito scappato stanotte da ridere, dicendo beh, vedi, le vicende del PD qualche cosa provocano. Poi l'altra grande notizia, perdonami, niente avviene per caso, o meglio molti casi sono necessari, quella della Stampa. 6 casi su 10 a dirigere le carceri è una donna. Un caso sì. Per te? No, non è un caso. Naturalmente su questo io mi fermo, perché è una battuta, ma speriamo che la passino. È una battuta, ma in realtà un po' lo pensi che... Un po' lo penso, che siano più brave a organizzare la repressione carceraria. Un po', forse un po', po', sì, forse un po' lo penso. Sì. Vabbè, no. Sì, per fortuna oggi non è una delle 289 Sante Margherita, e quindi, perché sennò sarei ancora più represso da questo punto di vista. No, invece andando rapidamente ai santi. Oggi è il protettore dell'Abruzzo, che è San Gabriele della Dolorata, è un santo dell'Ottocento, Francesco Possente, che si fa padre passionista, e nella sua giovane vita, in realtà, perché poi lo porta via la tubercolosi, però illustra di sé, della sua fede, la vita intorno a sé, e anche copatrono delle Acli. E tra gli altri tanti santi del giorno c'è una Sant'Anna Lyme. Che è Sant'Anna Lyme? È una cattolica inglese che venne impiccata sotto Elisabetta I. Siamo appunto nei decenni in cui la lotta contro la Chiesa romana e il cattolicesimo induce la corona britannica a non andare tanto per il sottile, insomma, e quindi alcuni di questi laici sono diventati santi proprio per ricordare alla corona britannica che la Chiesa cattolica, insomma, stava con gli spagnoli, in parole povere. Tra chi fa gli anni oggi, ne scelgo uno solo, Enzo Boschi, grande geofisico italiano, per ricordare a tutti il terremoto, che è ancora un problema aperto da mesi e del cui ritardo bisognerà cominciare sempre più a interrogarsi. Ecco, questo più o meno le cose che voglio ricordare per la giornata. Tra l'altro oggi, Oscar, noi parleremo anche un po' di politica, perché ovviamente l'agenda politica si impone. Ieri Renzi, tornato dalla California, è andato da Fabio Fazio, poi è rinata la Democrazia Proletaria, visto, no, è andato DP, Democratici Progressisti, anche se c'è un piccolo problema, pare, su questo simbolo. Però su tutti i giornali, a mio modo di vedere, giustamente, molti giornali aprono con la vicenda di DJ Fabo. Non so se ve la ricordate, noi ospitammo a gennaio, il 20 gennaio, la fidanzata di DJ Fabo, che, rimasto cieco e tetraplegico, chiede, dal suo punto di vista, una cosa semplice: di poter morire con un gesto di eutanasia, che in Italia però non è legale. È andato in Svizzera per compiere quello che tecnicamente è il suicidio assistito, che è una cosa diversa ancora dall'eutanasia, cioè è una procedura, un atto autonomo da parte del malato, che, aiutato e con mezzi forniti da un medico, ma autonomamente pone fine alla propria vita. Ovviamente su tutti i giornali, caro Oscar, è rilanciato il dibattito, è giusto, è sbagliato. Spesso lo si fa su un caso, poi l'attenzione scema e poi una legislazione non c'è mai. Purtroppo sempre, in questi anni spesso poi si confonde che cos'è l'eutanasia attiva, l'eutanasia passiva e il suicidio assistito. Hai appena detto, ho ricordato chi ci ascolta in cosa consiste il suicidio assistito, cioè un atto autonomo con cui si pone fine mentre alla propria vita, mentre l'eutanasia attiva è quella quando il decesso è provocato da una somministrazione di un farmaco diverso quindi da quello del protocollo così sottoposto. L'eutanasia passiva al contrario è l'interruzione cure che tengono in vita il malato insieme a macchine per le funzioni vitali. Quindi sono tre cose diverse. Naturalmente è inutile dire, molto spesso la politica ne parla, forse, almeno la mia impressione, senza quel rispetto profondissimo che bisogna avere insieme a un grandissimo spirito di comprensione per chi si trova colpito da vicende come queste. E così il testamento biologico continua a non essere parte fondante del nostro ordinamento. Sì. Io la considererei una cosa di civiltà, però è una mia opinione personale. Sì, io sarei anche favorevole all'eutanasia, penso un po', mi spingo oltre, però il dibattito ovviamente è molto, molto aperto, molto ampio. Se volete chiamarci su questo all'800 24 0024, ovviamente tieni conto, Oscar, che un conto è parlare di un caso, come dici tu, un caso singolo, un caso di cronaca, un altro conto è parlare di principi e di discussioni generali. Insomma, spesso che cosa succede? Ci si divide per steccati ideologici sul fatto concreto relativo a una persona, verso la quale secondo me bisogna portare il massimo rispetto, intanto per la sofferenza che sta vivendo e per la decisione che sta portando avanti. Ricordiamo che è in Svizzera con Marco Cappato dei Radicali, che si è prestato per portarlo in una di queste cliniche dove è possibile fare per legge il suicidio assistito con un protocollo molto rigoroso, perché l'associazione Luca Coscioni appunto da anni si batte perché nel nostro paese non giri il capo dall'altra parte di fronte alla necessità di regole di fronte a casi come questo. Sì, noi avevamo raccolto anche la testimonianza della fidanzata all'epoca, che poi aveva rivolto anche un appello al Presidente della Repubblica Mattarella. Secondo me la vera vergogna è che si debba andare in Svizzera per porre fine autonomamente e in libertà alla propria vita, invece di poterlo fare, come dice anche DJ Fabo, in mezzo all'ambiente più congeniale, gli amici, la propria casa, eccetera. Però insomma, capisco che magari è una posizione che molti ascoltatori non condividono. E su questo, se volete chiamarci. Sì, mi limito a porre una questione, poiché le regole alle quali io non credo, dell'informazione italiana mainstream, pretendono di ridurre tutte le questioni come se fosse alla par condicio, uguali minuti a tese contrapposte. Io in particolare sarei curiosito da capire perché i nostri ascoltatori ritengono che l'ordinamento, cioè le leggi della Repubblica, debbano, tra virgolette, porre come fondamento l'idea che ciascuno non disponga della sua vita. Mentre io rispetto profondissimamente chi pensa questo per adesione a un complesso di valori filosofici, etici, religiosi, perché l'ordinamento deve fare di questo un pilastro delle leggi? Ecco, per me questa domanda viene prima da uno a favore e uno contro, perché non lo so, non mi sembra quanti voti hanno preso alle elezioni. Naturalmente, perché io sono un minoritario testa di piffero che crede di sapere tutto. Non credo di sapere un piffero di niente, però mi rompe già vedere le pagine con lo stesso numero di righe, eccetera. Uno a favore e uno contro. Esatto, a favore e contro. In ogni caso, questi sono argomenti di cui la politica si occupa a ondate, no? Adesso ci sarà qualche intervista sui giornali e poi dopo, come il caso di Eluana, che è un caso anche questo totalmente diverso rispetto all'eutanasia, non c'entra niente Eluana Englaro con l'eutanasia, non c'entra niente col suicidio assistito, lì era l'autodeterminazione della scelta delle cure. Però ricordi, no, la vicenda di Eluana Englaro, faremo tutto in 3 mesi, legge, ci doteremo di una legge, quale che sia. Siamo ancora a discutere se c'è una legge o no, proprio in questi giorni dovrebbe ripartire la discussione alla Camera. Comunque, di questo la politica non parla molto, parla e ci si divide su altre cose. Noi abbiamo chiamato due donne che la politica la masticano, diciamo così, perché l'hanno anche fatta, la fanno. Flavia Perina, buongiorno. Ciao, buongiorno, Flavia, a voi, benvenuta. Buongiorno. Così come Chiara Geloni, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, Chiara. Flavia, di questo non parla la politica, poi parliamo invece dei temi che si sentono. Di questo, anzi, quando parla fa una grandissima confusione, perché sia sui giornali che nell'informazione televisiva c'è una grande confusione tra il testamento biologico, che è una cosa e che è addirittura d'arrivo in Parlamento ed è una legge che serve all'Italia, e il suicidio assistito, che è un'altra categoria. Sì. E quindi in generale si crea sempre questo clima di tifoseria, persino su vicende etiche e personali così importanti. Sono bolle mediatiche che non portano avanti il dibattito, che fanno solo confusione, però consentono un po' a tutti a posizionarsi, chi ha difesa dei valori con la maiuscola, chi ha difesa della modernità con la maiuscola, e siamo tutti contenti, ma è piuttosto deprimente. Sì, anche perché in Parlamento sei stata di questo, a ondate se ne parla, no? Poi sì, se ne parla a ondate e poi non se ne viene mai a capo. Io credo anche che la stagione comunque dei dibattiti sfocati su questi temi sia un po' passata. Adesso al centro ci sono problemi, i nuovi diritti sono un tema un po' scartato anche dall'opinione pubblica, perché qua ci sono i vecchi diritti che sono messi in discussione, e quindi è più in qualche modo importante per l'opinione pubblica il dibattito, non so, sul lavoro, sulle pensioni, sul welfare, piuttosto che quello su tutta la categoria dei nuovi diritti, che quando perdi pure quelli vecchi, insomma, magari te ne occupi un po' meno. Non so, visto che Chiara Geloni fai parte, non lo so, o se segui, sicuramente Chiara Geloni non è una renziana, no? È sempre stata una bersaniana, quindi immagino sarebbe una bella cosa di sinistra, no? Di questa nuova formazione DP, magari partire anche da questi elementi che riguardano e poi intercettano non solo poche persone, sono molto, molto più diffuse. Poi. Guarda, non so se è di sinistra, io... A me non piace molto identificare la sinistra con questo tipo di questioni, che sono questioni di umanità, che dovrebbero essere a cuore di tutti, indipendentemente dalla collocazione politica. La sinistra è un'idea di società, è un'idea di anche di libertà delle persone, ma non credo che sia giusto né nei confronti di queste questioni ridurle a una questione di sinistra, né identificare la sinistra con queste cose. Io la penso, vedi, come Flavia Perina, che non è una persona che credo si definirebbe di sinistra, condivido quello che ha appena detto sul come la politica si occupa di questi temi, purtroppo spesso tirandoli dentro battaglie di appartenenza politica e usandoli più per dividere che per unire. Ma sulla stessa legge del testamento biologico, guarda, che già si sospetta che possa essere un tema su cui qualcuno gioca per far cadere il governo o qualcun altro per indebolire Gentiloni, eccetera. Io lo dico da cattolica, ma credo che lo potrei dire anche da laica: è inaccettabile che un tema come questo si affronti dentro un gioco politico di partito, e secondo me non sarebbe neanche giusto se diventasse, come dicevi, insomma, la prima battaglia politica del nuovo partito nato alla sinistra del PD. Perché? Cioè, devono essere temi che cerchi di risolvere includendo, non mettendoci sopra la tua bandierina. Sì, non per steccati. Caro Oscar, invece la politica parla di altro in questo momento, giustamente, di cose anche profonde, importanti, le differenze, le disuguaglianze, le ricette, e soprattutto quando si va a votare, perché poi questo è il tema principale, no? Io sono molto colpito da due cose. Naturalmente il mio occhio è deviato dal fatto che ho una certa preoccupazione innanzitutto per la condizione economica del paese, e il primo è oggi la stampa ci torna, ma ieri la stampa aveva tirato fuori con ancora maggior rilievo il tema, cioè il ministro Padoan, che rivolgendosi al PD e a Renzi dice chiaramente: beh, benissimo, se continuate così ve ne trovate un altro che vi garantisce i conti a Bruxelles. Cioè, non contate sul fatto, se adesso per questioni elettorali di divisione del PD fate la gara a chi lancia proposte più prive di copertura, di avere in me chi poi deve tentare di difendere Bruxelles. E questo è un aspetto che riguarda il governo Gentiloni come se si dura, ma soprattutto per fare che. E poi secondo, mi ha molto colpito, dopo 3 anni di politica economica del governo, di bonus a chi un reddito ce l'aveva e di prepensionamento in definitiva anche a chi un lavoro ce l'ha già, e di risposte abbastanza dure a chi diceva sì, ma la povertà assoluta, tutti questi miliardi nella decontribuzione, non è meglio riservare gli occupati aggiuntivi e fare qualcosa per chi ha meno niente? Ecco, adesso invece la svolta è che Renzi penserebbe a questo grande lavoro di cittadinanza, cioè si cambia segno alle politiche. Benissimo, però dopo 3 anni di governo vuol dire che una riflessione è venuta. Non voglio fargli per critico, faccio solo notare a chi ci ascolta che certo il segno rispetto a quello visto al governo è completamente diverso. Ecco, tutto qui. Però è interessante questa cosa del lavoro di cittadinanza che ha proposto, che è diverso dal reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Flavia Perina, io credo che su questo si dibatterà molto nella campagna elettorale che ci sarà, tanto siamo in campagna elettorale permanente, si sa, in Italia. Cioè, come affrontare il tema delle diseguaglianze, dell'includere tutte quelle persone che non sono nel mercato del lavoro, che sono in difficoltà, il tema delle nuove povertà. Su questo ci si gioca moltissimo, credo, no? Nella prossima campagna elettorale. Ma in realtà... Allora, tanto un'opinione mia su questo tema del lavoro di cittadinanza, e capisco le preoccupazioni di Padoan, perché immagino che Padoan tema che la prossima campagna elettorale si giochi all'inseguimento dei grillini, e quindi dice: non pensate che io vada a mettere cappello su proposte appunto strampalate che vengono fatte semplicemente per in qualche modo recuperare l'elettorato che normalmente si rivolge al mondo 5 Stelle. Dopodiché c'è la proposta del lavoro di cittadinanza non è ancora stata sviluppata, è ancora soltanto una bozza, a farti capire che si tratterebbe di dare un sussidio alle persone obbligandole contemporaneamente a svolgere dei lavori di pubblica utilità, socialmente utili. L'ha fatto Vendola in Puglia, ma questa proposta nella prospettiva che cosa comporta? Comporta il fatto che alcuni lavori di pubblica utilità, tener pulire le strade, i giardini o le scuole o fare piccole riparazioni negli edifici, non avranno più un lavoro vero, occupato, retribuito, cioè le persone che attualmente svolgono quel lavoro con una busta paga, cosa saranno? Sostituite invece da una sorta di volontariato a bassissimo reddito, senza garanzie, in cambio solo dei sussidi? Noi rischiamo, se per caso questa fosse la proposta, di avviare un'ulteriore sostituzione. Già abbiamo sostituito il lavoro normale con il lavoro flessibile o addirittura voucher. A questo punto sostituire il lavoro normale con il non lavoro, cioè con il volontariato di persone che ricevono un sussidio. Io non so quanto, non sono un economista e non so valutare quanto questa cosa possa funzionare. Ho dei dubbi e penso che piuttosto che guardare appunto questi modelli della frontiera americana, Renzi è appena tornato da un viaggio in California, sì, dove grosso modo questi sono i ragionamenti che si fanno, forse bisognerebbe guardare a modelli continentali più efficienti come quello della Germania, dove la disoccupazione è bassissima, il lavoro è piuttosto garantito, l'economia funziona, e insomma, se dobbiamo copiare da qualcuno, magari forse copiamo, è meglio lì copiare di questo. So, Oscar, lì ci sono tre, oggi il Messaggero diceva ci sono 3 milioni di inoccupati, no, il giornale per la verità, 3 milioni e 100.000, cioè si dovessero mettere in questo meccanismo. No, quelli sono disoccupati. Di disoccupati, sì. Non gli inoccupati sono un'altra cosa. Se dovessero metterlo nel meccanismo di, come dire, di questo lavoro di cittadinanza, cioè farli rientrare i meccanismi di welfare, di lavori socialmente utili, costerebbe, questo almeno scrive il giornale, 25 miliardi di euro l'anno. Sì. Io non mi avventuro finché non conosciamo il testo, per evitare poi di sentire tutti che abbaiano protestando in alcun tipo di simulazione su costi eccetera. Il problema esiste però del corrispettivo, sappiamo tutti che proposta 5 Stelle costa quello che costa, tanto. Loro sono fermi a una stima del 2014 Istat che era 14,9 miliardi, i poveri sono cresciuti, quindi oggi il Messaggero torna a dire 15,5, ma insomma siamo sui 16 miliardi e così via. Ne sappiamo il costo e non sappiamo bene le coperture. Quello che manca delle politiche del Jobs Act sono le politiche attive. Allora, le politiche attive, cioè tutta la nuova parte che doveva fin dall'inizio essere fondante, come si intreccia domanda e offerta di lavoro, un conto è concepirle per un mercato del lavoro efficiente, come hanno fatto in Germania. In questo la penso come la Perina, nel quarto pacchetto Hartz si è diminuito, i sussidi erano troppo generosi in Germania, lì li si è abbassati, non è il nostro caso, ma soprattutto li si è incatenati a una serie di offerte che pubblici e privati accreditati che offrono lavoro in Germania, che intermediano, voglio dire, possono dare a chi è obbligato a iscriversi a questo servizio, e poi lui non può dire no, perché se dice no perde il sussidio. E in questo in Germania è vero, ci sono anche i lavori a bassissima retribuzione, quindi stiamo parlando di una scelta che però riguarda le politiche attive del lavoro. Se pensiamo invece di incardinare tutto il welfare ai poveri su una scelta di lavoro, punto interrogativo, perché diventa molto più onerosa. E la mia opinione è che servono altre cose invece, però questa è la mia opinione, sì. Vedremo i testi, è inutile adesso mettersi a fare i soloni. Sì. Allora ripartiamo da Chiara Geroni, ma tra un attimo dopo la pubblicità, ci sono anche tanti ascoltatori che ci chiamano per la vicenda di DJ Fabo, adesso diamo loro spazio, per Chiara Geroni, per capire anche questa scissione a sinistra dove porterà, tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, tanti ascoltatori ci chiamano per il caso di DJ Fabo, se sono sintetici ci fanno una grande cortesia. Maria Rosa ci chiama da Varese, buongiorno. Buongiorno, io ho fatto, sono cattolica tanto per dire, sì. Però ho fatto la mia lotta anche quando c'era stato il caso di Luana, perché ho litigato con preti e vari. Comunque io alle persone che dicono che non si può fare una cosa del genere, io rispondo, io chiedo, vivreste così? Io ho sempre chiesto, vivreste così? È possibile che uno non debba, non è vivere, non è vivere, vero? Anche per Eluana, 12 anni in quelle condizioni lì, è vivere? Dunque io a tutti dico... È una risposta alla quale ognuno risponde in maniera soggettiva. Per DJ Fabo non è una vita che è degna di essere vissuta. E quindi, per altri sì, magari, Maria Rosa. Dire che è vita questa, vero? E allora uno è... Io perlomeno per me ho già detto a tutti che se dovesse capitarmi una cosa del genere, io voglio fare la stessa cosa che fa questo ragazzo. Va bene, questa è la sua posizione personale. Mirko ci chiama da Fermo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Buongiorno Giannino, buongiorno. Milano. Grazie per la trasmissione e quello che fate tutti i giorni. Volevo portare la mia testimonianza giornaliera, avendo in casa un papà. Deve spegnere la radio però, gentilmente. Scusi, sì. Che sono 7 anni che è a letto, affetto da un ictus ischemico con emiparesi e afasia, quindi è lì a casa. E non abbiamo nessuna intenzione di staccare nessuna spina, di portarlo da nessuna parte o nelle belle giornate a fargli sentire un po' di sole e un po' di aria. Questa pressione e questo clan di pensiero per la morte più o meno assistita è cosa di... del terzo millennio, ma non ha niente a che fare con il vivere, per quello per il quale siamo venuti al mondo, sia per chi è credente che per chi non è credente. Però Mirko, questa è la sua posizione, cioè, assolutamente. Ha sentito, Maria Rosa dice invece non è una vita degna di essere vissuta. Assolutamente, io lei la pensa così. Io mi permetto, vi invito anche a casa a vedere quello che succede quotidianamente, mia madre che fortunatamente ancora riesce ad accudire con tutte le persone che ci sono intorno, perché sì. Ha bisogno di un'assistenza H24 come tutti questi casi potete immaginare, ma non è assolutamente possibile per quello che mi riguarda, ci mancherebbe, portare una persona a morire. Si deve lottare, si deve migliorare. Questo per l'ha detto chiaramente. Io come diceva prima Oscar, non riesco ancora a capire perché si riesca sempre a tutelare in con l'attuale legislazione chi la pensa come Mirko e non si riesca a tutelare chi la pensa come ragione, Sandro. Il problema non è il libero l'opinione di ciascuno. Io posto una semplice domanda, tentate di convincermi perché il ragionamento appena svolto da Mirko, che rispetto e che so essere condiviso da tantissimi, deve diventare il punto dell'ordinamento, perché significa non consentire a chi ha un'idea diversa di cosa consista la dignità della vita, poter fare una scelta coerente a questo. Perché l'ordinamento deve dire ha ragione Mirko? E cioè Mirko ci dice noi siamo, e ha detto sia chi crede chi non, sia chi non crede, sia chi è cattolico chi no, nati per altro e la vita è altro. Ecco, questo lo dice Mirko. Perché lo deve dire l'ordinamento della Repubblica Italiana? Io mi limito a porre questa questione. Chiara, torniamo alla questione, politica. In questo viaggio, come dire, come vedi, noi mettiamo sempre tante cose, sì, tante cose sul piatto. No, mi rendo conto. Però, sai, i nostri ascoltatori, poi non so, un portofranco, no? La gente parla su tutto. Però, se vogliamo tornare a parlare di politica, la gente si chiede dove e a che cosa porterà questa scissione, nella quale immagino tu credi, cioè nel senso, fai giusto per capire, non per incasellare, ma fai parte, diciamo, di coloro che ritengono giusto staccarsi da un partito in cui non ti riconosci più, no? Il Partito Democratico. Lo chiedi a una persona che ha visto in questi anni tantissimi amici uscire dal PD, amici, come si dice, anche compagni, persone con le quali avevi condiviso tante battaglie, tanto impegno, tante idee, e a tutte queste però forse Chiara dicevo, posso chiedere, perché appena tu uscire non è che restituissero la testa, magari non la rifacevano, no, o non votavano, non la rifacevano, oppure votavano altro, non partecipavano. Parlo anche di persone che partecipavano molto, che andavano al circolo, che andavano che organizzavano le primarie, non partecipavano alle tra l'altro primarie. Ne approfitto per dire a chi è in ascolto che guardate che il termine per, se volete partecipare al congresso del PD, è domani l'ultimo giorno in cui potete iscrivervi, perché hanno dato pochissimi giorni, cioè 28 febbraio stop alle iscrizioni, alle telefonate. chiusa parentesi. Sì, in realtà poi al congresso del PD possono partecipare anche i passanti, come è noto, perché questa si chiudono le iscrizioni per partecipare alla fase riservata agli iscritti, esatto. poi dopo alle primarie, vabbè, si sa che non c'è bisogno di nessuna iscrizione per partecipare. Ma dicevo, ho visto tanti amici andarsene da questo partito e a loro ho detto fate male, perché non si esce da un partito, perché non ti è simpatico il segretario, bisogna rimanere, l'ho detto tantissime volte per ormai quasi 4 anni. Penso che le cose fossero arrivate a un punto dove purtroppo non era più possibile dire così e ho dovuto rassegnarmi, altro che preparata da prima, cioè, è nato un partito che non ha neanche un nome, neanche un simbolo, è stata una cosa che è avvenuta in pochissimi giorni, ma credo che fosse diventata inevitabile purtroppo di fronte al fatto che il Partito Democratico non riconosce più la... non è più capace di gestire un pluralismo di idee. L'abbiamo visto anche ieri quando Roberto Speranza è andato in televisione per la prima volta dopo questa scissione, ha detto alcune cose, peraltro sull'Italia, a proposito di welfare, a proposito di idee che intende portare avanti in Parlamento, a proposito del governo Gentiloni. E dal PD anche voci solitamente moderate gli hanno risposto che lui parla per odio personale. Io ho paura quando vedo usare con tanta leggerezza queste parole. Beh, purtroppo però un po' di livori da una parte e dall'altra sono usciti e che fanno un po' perdere il contatto da parte delle persone normali a quello che sta succedendo. Cioè si chiedono ma sono livori personali oggi alla fin fine? Oggi c'è una pagina intera sul Corriere della Sera sugli insulti online. E si vede chiaramente però anche diciamo chi li fa e chi li subisce, ma comunque un conto è anche dirsene quattro, come succede quando si litiga tra marito e moglie, quando si litiga in famiglia o anche tra amici. Un conto è accusare qualcuno di agire per odio personale, vorrei ripetere quello che ho detto, cioè sono parole veramente pesantissime, inutili, non... Nessuno fa una scissione per odio personale, non è il modo di affrontare le cose e di risolvere i problemi, è un vittimismo che è un alibi per non affrontare il fatto che il PD continua a rimuovere le sue sconfitte, i suoi errori, il suo essersi allontanato dalla sua identità, che in tanti, non Roberto Speranza, Roberto Speranza arriva ultimo dopo tanti che hanno scelto di lasciare quel percorso perché non lo condividono più. Non so, Flavia Perina, dove si arriverà a questo punto? Cioè perché dal punto di vista elettorale Io penso che lo schema delle prossime elezioni sia piuttosto chiaro. Renzi ha completato con questa scissione in qualche modo quello che era il suo originario progetto di rottamazione dei vecchi quadri dirigenti del PD che non gli davano retta e che lui giudicava gufi, inaffidabili, insomma lo ha sempre detto, e quindi è riuscito a incalanare il partito in una soluzione che per lui era messa nel conto già da moltissimo tempo. Dopodiché si giocherà la prossima campagna elettorale, io penso, non tanto sulle proposte, sui contenuti, ma sulla sfida col 5 Stelle. E sarà l'appello al voto utile, non o io o loro. E io credo che si riproporrà un po' uno schema, non so quanti degli ascoltatori se lo ricordano, cioè le elezioni del 76, quelle del possibile sorpasso del PC sulla Democrazia Cristiana, e con gli appelli a turarsi il naso ma a votare DC per evitare che arrivassero i barbari a San Pietro. Sarà un po' quello lo schema della campagna elettorale, dove i barbari saranno interpretati al Movimento 5 Stelle, e credo che Renzi pensi di riuscire a portare non solo il voto di sinistra ma anche il voto ben pensante, moderato, dalla parte sua, in nome della diga anti-grillina. E siccome queste cose generalmente in Italia funzionano, magari avrà pure fortuna. Alla DC nel 76 andò bene perché il sorpasso non ci fu, conservarono il governo, riuscirono a recuperare un sacco di voti. Però Flavia, col proporzionale capisci, io non la vedo questa cosa, però magari mi sbaglio. Ma io con questo sistema elettorale l'importante è arrivare primi. Chi arriva prima avrà l'incarico da Mattarella di formare il nuovo governo, poi dopo si fanno le alleanze. Quindi la necessità con il proporzionale è uno schema, noi ce lo siamo dimenticato perché sono 20 anni che votiamo col maggioritario, ma con il proporzionale l'importante è essere primo partito. Quando sei primo partito il Presidente della Repubblica ti dà l'incarico, poi Renzi potrà fare accordi con la sinistra, con Berlusconi, con chi ti pare, in un sistema politico frammentato recupererà un po' di percentuali per sostenere il governo da qualche parte. L'importante è arrivare primo, perché chi arriva primo ha l'incarico dal Quirinale. Oscar, qui intanto noi nel ringraziare Flavia Perina e Chiara Gironi, grazie per essere state con noi. Ci sono tante telefonate ancora, non so, prendiamone una. Claudio da Bergamo, poi magari questo tema continuerà, è caduta. Luca da Treviso. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. E niente, la mia personale esperienza è stata quella di mio padre, che molto, in maniera molto umana i dottori ci hanno spiegato quello a cui davamo incontro, cioè purtroppo ci avrebbe lasciato da qui a poco, ci hanno proposto di sedarlo con morfina fino alla fine, insomma, e noi abbiamo accettato, abbiamo firmato delle carte, non erano proprio carte espressamente diciamo, però, un accanimento terapeutico, esatto, questa, abbiamo infatti, questa è una cosa. Io ringrazio Luca perché giusta, io inviterei molti di coloro che parlano, non so, fatevi un giro in un hospice dove ci sono gli anziani con le fatevelo un giro, cercate di capire come funziona davvero questa funzione prima di giudicare gli altri, però non lo so, può essere che mi sbaglio io come sempre. Comunque domani chissà, magari ne parleremo anche di questo tema. Ringraziando tutti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia. Dai, ci ritroviamo domani mattina.